Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Giovedì 1 aprile, buongiorno e bentornati a Liberi Dentro e Duradio, ora in onda su Radio Città Fujiko e alle 10.30 su Teletricolore. Io sono sempre Caterina alla conduzione di questo programma, ma non sono mai sola perché ho sempre degli ospiti molto, molto cari. Con me ci sono Ignazio De Francesco da Montesole, buongiorno. Buongiorno, ahlan wa sahlan wa marhaban, benvenuti a tutte e tutti. E Samad Bannak, sempre con noi per tutta questa settimana, grazie. Buongiorno, assalamu alaikum, assalamu alaikum a tutti. Allora, oggi io con le notizie di cronaca vi porto a Campobasso, in Molise, un articolo di Carla Ferrante tratto da Libero, molto carino, è la storia di Jack, il cane meticcio che vive felicemente in prigione. Si chiama Jack ed è un meticcio e da circa un anno vive in una delle carceri più sicure d'Italia, sicure tra virgolette, nella casa circondariale di reclusione di Campobasso, in Molise. Questo cane è stato adottato come ultima volontà, pensate voi, di un detenuto che aveva una malattia terminale. Quindi quest'uomo, collaboratore di giustizia, in attesa di valutazione da parte del magistrato competente, aveva espresso come ultimo desiderio di poter avere nella sua cella un amico fidato con cui trascorrere le ultime giornate sostanzialmente. E la direttrice, Rosa La Ginestra, ha concesso l'autorizzazione. E Jack ha fatto il suo ingresso in via Cavour con tanto di microchip, libretto sanitario canino ed è diventato protagonista del carcere molisano dove hanno soggiornato tra i più pericolosi boss della criminalità organizzata. E si è affezionato tantissimo anche ai detenuti all'interno del carcere che a ogni sua richiesta gli fornivano acqua fresca e cibo. E la storia di questo cane si conclude bene, nel senso che è rimasto in questo carcere, era, pensate, destinato a finire in un canile, poverino, cioè non c'erano nessuno che lo volesse ospitare. Ma la malattia del detenuto però è peggiorata e quindi è stato spostato e il cane non è stato potuto essere trasferito con lui e quindi la separazione tra i due si è terminata in un fiume di commozione da parte di tutti, ma adesso i detenuti che lo hanno invece tenuto e lo tengono in grande considerazione lo coccolano loro. Vi dico questa notizia che è carina perché sappiamo quanto l'animale sia sempre un amico fidato per tutti e forse in posti dove la solitudine è maggiore portano maggiore gioia, maggiore accompagnamento alle persone. Però per molto tempo sappiamo che il carcere è stato off limits per gli animali e anche oggi non è sempre possibile averli perché ci sono stati diversi casi di abuso verso gli animali. Però sembra che negli ultimi anni stia diventando una realtà consolidata e c'è la possibilità di far incontrare le persone recluse con i propri amici a quattro zampe. E ora do la parola a te, Ignazio, con le notizie internazionali. Siamo in Tunisia. Tunisia e parliamo di datteri. Con un articolo, sempre il giornalista la dovremmo chiamare una volta, Meriam Hemdullah, che parla del tema dei datteri del tempo di Ramadan, che è importantissimo questa cosa. Si rompe il digiuno, giornata del digiuno, con i datteri, sa molto bene, anche per il carcere c'è il problema di far arrivare i datteri, cioè non è che uno mangia un panino, quando anche perché ha digiunato tutto il giorno ci vuole qualcosa che per lo stomaco funzioni bene. Quindi è importantissimo ed è anche un segno di festa il datter, una benedizione dal cielo. Oltretutto in Tunisia quest'anno, proprio nei momenti peggiori della storia, c'è stata una raccolta di datteri pazzesca, forse anche in Marocco, 335.000 tonnellate il raccolto dei datteri quest'anno, di cui solo 50.000 vanno all'estero. Però che cosa succede? Vedete questa cosa incredibile. Il dattero dall'agricoltore costa 4 dinari al chilo, lo comprano, 4 dinari, che sono 2 euro, lo vendono a 12 dinari, cioè si triplica il prezzo del dattero. Quindi le persone già sono povere, c'è la crisi, c'è il Covid, in più quelli che si chiamano il Murtakirun, no? I monopolisti, ecco che ti strozzano proprio nel mese del dattero, che la benedizione uno ne approfitta. Adesso io non è che faccio la campagna adesso contro i venditori di datteri in Tunisia, ma questo solleva un problema morale molto forte. Devi guadagnare nel commercio, questo vale anche per chi ci ascolta. Tu qualsiasi, però il tuo commercio è un servizio, la gente deve potersi avvalere senza essere strozzata. Quindi stanno prendendo delle misure per cercare di calmierare il prezzo dei datteri in Tunisia. Grazie Ignazio, e allora ti tocca lanciare il primo brano musicale di oggi. Torniamo in Egitto. Con Abdel Halim Hafez, un altro cantante molto popolare, uno dei cantanti popolari più famosi in Egitto, che canta una classica canzone romantica, proprio un modello melodico tradizionale, molto diverso da quello che abbiamo visto ieri, il Muallem, e canta Hawak, cioè ti amo, ma se potessi ti dimenticherei. هواك واتمنى لو انساك وانسى روحي واياك وان ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والقدموع يفكراك ارجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها يهون في هواك طول حرماني أهواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك وان ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك. E rieccoci su Liberi Dentro Du Radio, sulle note di questo brano musicale molto romantico di questo cantautore egiziano. Siamo sempre con la nostra rubrica di Galateo Arabo Internazionale a cura tua, Ignazio, e abbiamo parlato in tutti questi giorni dell'ospitalità. E legata al Ramadan, che sta ormai per iniziare, c'è proprio il tema di servire la persona ospitata, no? Sì, è una cosa delle più belle del Galateo arabo. Io l'ho vissuto tanto in Palestina anche, quando andavi a bussare in una casa, anche una casa povera, ti venivano, ti trattavano come un re. E dice, Yakhdumu adiyatahu, cioè che serva, il padrone di casa serve i suoi ospiti, o yuzhiru lahum bastil wajh, wa farah as-surur, cioè gli fa una faccia sorridente. Non un po' scocciata, noi certe volte se uno arriva 5 minuti prima, non era il caso, era meglio, no, è sempre contento. E poi yuqarribu ilayhi ta'am, cioè gli offre il cibo con le sue mani. Questa è una cosa molto, molto rituale, molto bella. Io ricordo una mamma in una casa palestinese che si mise davanti a me con il bacilletto della frutta e tagliava una mela e mi infilava gli spicchi della mela in bocca. E poi tutte quante, come segno proprio di onore, dell'ospite. Bellissimo, bellissimi ricordi. E con te invece, Samad, sempre anche sull'onda, anche qui dei ricordi, perché tu sei stato, parlavamo ieri dello studio, dell'importanza dello studio, però questo studio ti ha portato anche a un lavoro adesso, ma già prima tu, anche all'interno del carcere, il lavoro è essenziale, no? Quindi se parliamo di questo. Sì, grazie sempre no? Per tornare al tema della libertà, no? Questa libertà che dicevo che era di mattoni, no? Di step, uno che proprio come una catena, no? Un ingranaggio che non può girare come una macchina se non ci sono tutti gli ingredienti giusti. Uno tra proprio la libertà, il sapore della libertà e uno, l'indipendenza economica, il fatto che tu hai un guadagno lecito, per cui poterti comprare le cose di cui hai bisogno e non andare a chiedere a qualcuno che te le possa dare. Quindi il lavoro è uno di quei strumenti che oltre anche proprio al guadagno in sé per sé dei soldi ti dà dignità, ma questa dignità te la dà attraverso anche questa indipendenza economica. Mi ricordo questo fatto che mi è accaduto prima, per poi tornare a questo, che quando sono uscito, che proprio ero sul lastrico anche economicamente, ho iniziato a lavorare con questa FID, fare impresa, che grazie a Ignazio sono andato in queste case di via dello Scalo, non so se ti ricordi, per un periodo sono stato ospite agli appartamenti dell'AVO, e sono andato proprio per chiedere la busta della spesa al Caritas, no? Perché non avevo nulla, ci tengo proprio a condividerla. E non sono riuscito. Sono stato in fila, sono arrivato fin lì, nonostante avevo bisogno, ma non l'ho presa. E sono stato talmente male, ma talmente male, proprio per... Non saprei definirlo. E quindi il lavoro è uno di quei strumenti che è molto importante sia per le persone fuori, come lo è importante soprattutto per i detenuti, ma per tutti, cioè avere un lavoro che ti permetta di guadagnare dei soldini, ma non neanche per diventare ricco, ma per vivere dignitosamente e comprare ciò che ti serve quotidianamente è molto importante. Io sono stato fortunato, sono sempre fortunatissimo. Quindi ho avuto anche questa opportunità di lavorare con Feed, fare impresa, che è un'azienda che non so se è ancora operante al carcere della Dozza, fatta da queste tre grandi aziende di packaging a Bologna, che ci ha offerto proprio delle informazioni, ma non solo a me, a tante persone, che ci ha permesso di poter lavorare fuori, anche se non era uno stipendio che ti poteva, no, dare la ricchezza e così, ma ti faceva vivere dignitosamente, uscire la mattina e la sera. E proprio poi, grazie allo studio, alla laurea e così via, sono riuscito a fare questo mio piccolo ufficetto, questa piccola agenzia di disbrigo pratiche, dove quotidianamente vengono la mia maggioranza, cioè circa il 70-80% della mia clientela, sono extracomunitare, non solo marocchini arabi, ma extracomunitari, sia per la lingua, sia per il fatto che magari, no, li capisci prima che parlino, ecco, sai più o meno le cose che vogliono chiedere perché sono soliti, quindi faccio disbrigo pratiche, dichiarazioni di redditi, proprio sempre consulenze, infatti perché mi sono laureato in consulenza del lavoro e quindi questo. Grazie di averci raccontato tutte queste cose, anche perché delle volte diamo per scontato che si inizia a lavorare. Il lavoro è importante, ma spesso iniziamo con lavori che non ci piacciono. Cioè, io mi ricordo la mia prima esperienza, facevo la pizzaiola, facevo la pizza in un posto, tra l'altro, dove ci siamo incontrati per la prima volta 10 anni fa. E ovviamente non era il lavoro della mia vita, però si fa per guadagnare dei soldini, per avere quei soldini per uscire la sera oppure per essere un minimino indipendenti. E poi dopo, con lo studio, si arriva al lavoro magari che può essere quello della vita o quello di un periodo, perché ormai è difficile Certo, parlare di lavoro per una vita. Ed è molto bello che tu abbia messo su, lo dico io il titolo, Babbel, giusto? sì, Babel, sì, come la Torre di Babele, quindi è un'agenzia dei popoli perché c'è il mondo dentro, ci sono più, li ho contate l'altra volta, più di 84 nazioni che vengono da me, quindi c'è il mondo, possiamo dirlo che c'è il mondo. Ci sono tutti i cinque continenti, quindi ecco. E ora ti tocca lanciare un brano musicale. Sì, lanciamo questo brano musicale che mi piace tantissimo di Rashid Taha, un algerino, un cantante algerino, di questa canzone anche un pochino vecchia, che parla del pellegrino, cioè questo personaggio che l'immigrato, più che il pellegrino, l'immigrato. E lui dice, tu che sei immigrato ti stancherai, prima o poi tornerai indietro. Dove stai andando, che abbandoni le tue radici, i tuoi cari per andare lontano. E quindi ascoltiamo Rashita, e per questa è dedicata soprattutto a tutti i detenuti arabi nordafricani alla Dozza. Grazie, ascoltiamo questa canzone e noi ci rivediamo sempre dopo la musica con l'ospite. A dopo. Rieccoci, bentornati su Liberi Dentro, sempre come ogni giovedì siamo con te, Marcello Mattei, buongiorno, bentornato. Buongiorno, bentrovati. Siamo arrivati finalmente al culmine del nostro percorso, vero? Abbiamo fatto tutto il percorso delle letture della Quaresima, poi la Settimana Santa e finalmente siamo arrivati alle letture della Pasqua. E in questo oggi caso... inizia il Triduo. Oggi inizia il Triduo. Esattamente, proprio il giovedì santo. La liturgia della domenica di Pasqua, perché la lettura che leggiamo è quella della domenica, oggi quella che commentiamo, prevede ben tre formulari diversi. Noi però ne abbiamo scelto uno. Ce ne sarebbe uno per la notte, uno per il giorno e uno per la sera. Quindi io ti chiederei di che cosa parlano questi tre brani del Vangelo. Sì, il messaggio della Pasqua è talmente trasbordante che non basta naturalmente una pagina di Vangelo per annunciarlo. Quello che commenteremo noi, quello che viene letto durante la notte ed è tratto dal Vangelo di Marco, e racconta l'episodio delle donne che vanno al sepolcro preoccupate di come avrebbero fatto a rotolare via la pietra che chiudeva il sepolcro, vanno per ungere un cadavere e si trovano davanti all'annuncio di una risurrezione. Il cadavere non c'è più. E tornano via spaventate ma commosse da questo annuncio. Il secondo brano, che è tratto dal Vangelo di Giovanni, lo leggiamo la mattina della domenica di Pasqua, e racconta di un episodio molto curioso, perché i discepoli, dopo aver sentito dalla Maddalena l'annuncio che è risorto, che Gesù non è più nel sepolcro, corrono, Pietro e Giovanni corrono al sepolcro per vedere se quello che diceva quella donna era vero. E Giovanni, che arriva per primo, si ferma e fa entrare Pietro. È l'annuncio sottile che Giovanni ci vuole dare, che essendo Giovanni il discepolo che Gesù amava, arriva per primo, perché l'amore arriva sempre per primo, a capire cosa stava succedendo. Il terzo brano è tratto dall'Evangelista Luca e racconta dei due di Emmaus, questi delusi degli avvenimenti, della passione di Gesù, della vicenda di Gesù che era finita male, era finita con una crocifissione. Se ne stanno tornando delusi a casa loro, ad Emmaus. Però in questo percorso si affianca Gesù senza farsi riconoscere e con loro conversa e scalda loro il cuore, tant'è che lo invitano a restare con loro in casa, e mentre sono in casa con Gesù lo riconoscono, perché Gesù spezza il pane con loro, è questo segno della frazione del pane, lo riconoscono e allora capiscono che è risorto. E tornano di corsa a Gerusalemme e rifanno la strada all'indietro per annunciare ai discepoli che hanno incontrato Gesù. È molto bello perché, come stai raccontando, si nota sempre il verbo del correre, no? Del correre a portare una notizia. E in particolare nel Vangelo di Marco, che è quello che commenteremo, che abbiamo scelto per la Domenica della Pasqua, io e te, oggi, si racconta appunto delle donne che vanno al sepolcro e incontrano un uomo dalla veste bianca che gli dice: non è qui. Ma chi è questa persona? Chi rappresenta? Per la comunità primitiva il messaggio era molto più immediato, perché chi veniva battezzato veniva vestito di una veste bianca. Quindi chi porta l'annuncio a quanti si avvicinano al mistero di Gesù, a portare l'annuncio sono i neobattezzati, quelli che hanno da poco conosciuto il Signore, hanno da poco vestito la veste nuova, la vita nuova, che è quella data dal risorto, e grazie a questo incontro con il risorto diventano capaci di annunciare agli altri: ma no, ma guardate, noi abbiamo fatto parte di questa esperienza, l'abbiamo vissuta, Gesù è vivo, Gesù è risorto. Quindi l'uomo dalla veste bianca è la comunità dei battezzati, che annuncia a tutti quelli che si avvicinano a questa comunità cercando di avere notizie di Gesù, si sentono dire: Gesù è risorto, si sentono dare l'annuncio che riguarda questa persona, non tanto della sua vita, di quello che ha fatto, di quello che ha detto, sì, anche questo, ma soprattutto del fatto che è vivo e risorto, è presente, lo possono incontrare adesso. E ora devi lanciare un brano musicale, perché siamo a metà della nostra puntata. Sì, ero molto incerto perché ne ho identificati alcuni. Alla fine mi sarei orientato a farvi ascoltare di Riccardo Cocciante, Cervo a Primavera, che perché parla di questa rinascita che porta con sé questa vita nuova, segno principale della Pasqua. E io rinascerò, cervo a primavera, oppure diverrò gabbiano da scogliera, senza più niente da scordare, senza domande più da fare, con uno spazio da occupare, e io rinascerò, amico che mi sai capire, e mi trasformerò in qualcuno che non può più fallire, una pernice di montagna che vuole pur non sogna, in una foglia una castagna. Amico caro, amico mio, e mi ritroverò con penne, piume senza io, senza paura di cadere, intento solo a volteggiare come un eterno migratore. Come un eterno migratore, e io rinascerò senza complesse frustrazioni, amico mio, ascolterò le sinfonie delle stagioni. E rieccoci sulle note di Cocciante, Cervo Primavera, questa rinascita. E il giovane in bianche vesti di cui accennavamo prima invita le donne giunte al sepolcro a portare a Pietro e agli altri discepoli il messaggio: egli, cioè Gesù, li precede in Galilea. E è singolare questo appuntamento in Galilea. Da dove era partito l'annuncio di Gesù? Nel nostro percorso che abbiamo fatto abbiamo detto che l'annuncio comincia dalla Galilea, ma perché allora l'appuntamento proprio di nuovo lì? Sono tante le interpretazioni possibili. Io credo che una sia quella che hai accennato tu, cioè Gesù chiede ai discepoli di ricominciare l'esperienza, riviverne il discepolato di Gesù, rivivere i momenti che hanno trascorso con Gesù come se fosse dall'inizio, però riviverli con questa luce nuova, la luce della risurrezione, la luce della Pasqua. Diventa tutto nuovo perché diventa tutto più comprensibile. In molti passi del Vangelo si dice talvolta che i discepoli capirono dopo la risurrezione quello che lui aveva detto, perché dopo la risurrezione è possibile accedere al significato profondo delle parole di Gesù. Quindi credo che Gesù da una parte li voglia invitare ad andare in Galilea per ricominciare questo percorso con loro, con una luce diversa. E l'altro significato che potrebbe avere è che andiamo nella Galilea, cioè come abbiamo già detto altre volte, ai confini della terra di Israele, e là in quelle zone nel confine dove possiamo incontrare anche la gente che non crede, che diventano quelle periferie esistenziali di cui ci parla Papa Francesco. Si tratta di andare a portare la Pasqua là dove si fa fatica a credere, là dove c'è più come dire precarietà, là dove c'è più incertezza, dove forse c'è anche più dolore, più mancanza di senso maggiore, e Gesù ci invita a ritrovarlo là, il Signore ci dà appuntamento là, dobbiamo ricominciare da là. Bene, e chiudiamo questa nostra chiacchierata intanto facendo gli auguri, vero, di buona Pasqua. Buona Pasqua, buona Pasqua. Quelli che ci stanno ascoltando, una Pasqua purtroppo ancora in distanza. Però lo facciamo magari chiudendo con un brano musicale significativo. Io in realtà lo lancio io, ma ho copiato l'idea da te. Il brano è di Bruce Springsteen, The Rising, ma chiedo a te il motivo della scelta. Avevo proposto questo brano qui, l'avevo messo tra quelli che volevo proporre, perché racconta della rinascita del popolo americano dopo la tragedia dell'11 settembre, quindi parla della volontà di un popolo, di una nazione intera di risorgere. Grazie, ascoltiamo questa bellissima canzone. A presto. Buona Pasqua. I see nothing in front of me. Can't see nothing coming up behind. Make my way through this darkness. I can't feel nothing but this chain that binds me. Lost track of how far I've gone. How far I've gone, how high I've climbed. On my back's a 60-pound stone. On my shoulder, half mile of line. Come on up for the rising. Come on up, lay your hands in mine. Come on up for the rising. Come on up for the rising tonight. Left the house this morning. Bells are ringing, fill the air. I swear to cross on my calling. Anche oggi, dopo le parole del cappellano del carcere Marcello Mattè, noi ci ridiamo appuntamento domani, sempre ore 9 sulla radio, ore 10:30 sulla televisione. L'appuntamento di oggi pomeriggio è con Diritti al Punto, con il giudice Maurizio Millo, che ormai conoscete bene, e vi ricordo di iscriverci, l'indirizzo postale è sempre Chiesa Santissima Annunziata, via San Mamolo 2, 40136 Bologna, oppure la mail liberidentro.eduradio@gmail.com. Ringrazio tutti gli ospiti, fisso e sempre fisso anche Ignazio De Francesco e Samad Bannac, la nostra redazione, il tecnico Matteo Parisini, e noi ci rivediamo sempre qui, sempre domani, su Liberi Dentro. Ciao e buona giornata.